Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Una delle mission in cui molte amministrazioni pubbliche sono impegnate è la riduzione delle emissioni dei mezzi di trasporto pubblico. Da questo punto di vista i più critici sono senz'altro gli autobus, spesso per via anche della loro età. Tra le possibili opzioni per ammodernare un parco autobus, naturalmente c'è quella di acquistarne di nuovi, ma c'è anche la possibilità di trasformare i mezzi esistenti o in mezzi ibridi oppure in mezzi completamente elettrici. Una strada che però si è spesso scontrata con costi elevati, in buona parte da attribuire alle batterie che è necessario installare su questi mezzi appunto per renderli elettrici. Ebbene, ECO, che è uno spin-off del Politecnico di Milano, di cui parleremo questa sera, ha invece identificato una terza via. Ce la spiega Paolo Bernardini, che è ingegnere e amministratore delegato di questo spin-off ECO, pieno zeppo di professori del Politecnico di Milano. Buonasera Bernardini. Buonasera Melis, buonasera. Allora, ci spieghi brevemente subito insomma come funziona questo sistema? Ma sì, si tratta essenzialmente di un sistema con due componenti, una componente per l'elettrificazione delle pensiline per ricaricare velocemente il bus e l'altra componente è quella di elettrificare il bus stesso, quindi dotandolo di un sistema di ricarica veloce. Ecco, ma qual è il vantaggio di questo tipo di soluzione per cui si spezzetta in un certo senso la ricarica lungo il percorso dell'autobus? Io non uso più la batteria, quindi non uso più un grande pacco elettrochimico che ha una grande autonomia e anche molti pesi, ma invece utilizzo un sistema diverso che è in grado semplicemente di darmi quell'autonomia tra una pensilina e l'altra, quella sufficiente autonomia per gestire il tratto da una pensilina all'altra. Ecco, insomma, invece di dotare un mezzo elettrico di un'autonomia di centinaia di chilometri per fare il suo compito durante la giornata, voi lo dotate dell'autonomia per fare qualche centinaio di metri o qualche chilometro, cioè per passare da una pensilina all'altra e a quella successiva. E qui il trucco. Questo riduce enormemente la necessità di accumulare energia elettrica a bordo del mezzo. Però, ecco, voi avete fatto anche una scelta tecnologica diversa. Al posto delle batterie usate una cosa chiamata supercondensatore. Corretto. Il supercondensatore, fondamentalmente rispetto alla batteria, consente elevata capacità di potenza, una velocità di carica e di scarica notevole e ovviamente una minore capacità di immagazzinamento dell'energia, tuttavia sufficiente per gestire quelle tratte da una pensilina all'altra. Ecco, senza entrare nei dettagli, le batterie accumulano energia elettrica sotto forma chimica, quindi ci sono delle reazioni chimiche che devono andare avanti e non si riesce a farle andare avanti più di tanto velocemente. Per questo le batterie non si riescono a caricare molto in fretta. I condensatori invece è un fenomeno puramente elettrico e riescono a caricarsi a una rapidità mostruosa, appunto. Sono sufficienti pochi secondi, 30 secondi anche meno, per elettrificare un bus che richiede una richiesta energetica di potenza di 200 kW. Ecco, quindi insomma, in pochi secondi riusciamo a dare e trasferire questa potenza necessaria per il bus, in modo tale che il bus proprio gestisca la tratta pensilina su pensilina, da una pensilina all'altra. Gestiamo energia ovviamente da fonti o rinnovabili o dall'illuminazione o la deriviamo dalla rete metropolitana, dalla rete, e la andiamo a stoccare in sistemi di accumulo stazionari e poi andiamo a trasferire in maniera molto veloce, quando passa il bus, questa energia che abbiamo accumulato. D'accordo. Economics, ci sono dei benefici nei costi di gestione, secondo le vostre proiezioni, naturalmente, sulla gestione appunto di una linea nel lungo periodo? Sì, ci sono dei saving di costi oltre all'80% dovuti al fatto che il motore certamente ha un rendimento superiore, il motore elettrico intendo dire. 80% in termini di energia questo? In termini di energia. Ok, quindi il mezzo è molto più efficiente, lei sta dicendo, e in termini economici invece c'è un risparmio? In termini economici sì, c'è un rilevante risparmio, un saving, diciamo, del percentuale del costo totale di linea del 20%. Del 20%, d'accordo. Senta, a che punto siete nello sviluppo del progetto? Noi stiamo costruendo l'iniziativa, abbiamo già sperimentato in laboratorio tutte le componenti del sistema, si tratta a questo punto di passare sul campo, di provare sul campo i risultati delle nostre esperienze che abbiamo in laboratorio. State già collaborando con qualcuno? Noi stiamo dialogando con il Comune di Milano e col quale prevediamo di poter far partire questa iniziativa e anche con altre enti locali molto interessati, soprattutto del Nord Italia. Ecco, naturalmente se ne arrivano altri a voi non dispiace. Assolutamente, questo è un progetto a nostro avviso che ha una dimensione nazionale. Grazie Bernardini, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Permettetemi di congedarmi salutando un amico e collega che ci ha lasciato all'improvviso venerdì. Ciao Rudy.